l'Associazione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, foem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream. L'elefante. C'era una volta un bambino che camminava con suo padre nel cortile del circo. Il piccolo guardò con stupore un grosso elefante che se ne stava immobile, la zampa legata a un paletto da una catena relativamente piccola in confronto alla mole del pachiderma. «Perché l'elefante è così stupido, papà?» domandò il piccolo. «Come mai non si accorge che lui è molto più forte di quella catena e di quel fragile palo?» Il padre gli rispose. «Quando lo catturarono era molto piccolo e si fidava di chi gli si accostava con tenerezza. Fu così che lo misero in catene per la prima volta, e a quel tempo le dimensioni della catena e del palo erano troppo grandi per lui. Inizialmente, vedendosi intrappolato, soffriva e tentò di slegarsi. Prontamente il suo addestratore lo colpì e sterrò ancora più forte il ceppo della sua zampa. Quando l'elefantino riprovò a liberarsi, la caviglia sanguinò, provocandogli un gran dolore, e in aggiunta si beccò una bastonata. Crescendo, tentò nuovamente di liberarsi, sentendosi oppresso e prigioniero dei voleri del suo addestratore. Voleva essere libero come gli elefanti delle praterie africane o dell'India. Questa volta l'addestratore lo castigò con una serie di scariche elettriche che per poco non gli provocarono uno svenimento. Così l'elefante continuò a tentare di liberarsi, guardando la gente che passava senza sciogliersi la catena e ignorando il suo dolore. E un giorno tremendo, figlio mio, l'elefante capì che non aveva via d'uscita, che qualunque cosa avesse fatto sarebbe sempre stato punito solo perché agognava la sua giusta libertà. E fu così che smise di lottare, rassegnandosi alla sua condizione come l'unica possibile. Tiny teardrops just sort of hanging there, and I didn't whether to laugh or cry. Buonasera a tutte, stasera parleremo ancora una volta della giornalista femminista attivista Lidia Cacio e in particolare del suo libro I demoni dell'Eden, inchiesta giornalistica sulla pedopornografia e la pedofilia. E Cacio nel suo libro descrive minuziosamente la fitta rete criminale e le collusioni politiche di questa con il potere politico in Messico, rete che vede al suo vertice l'uomo d'affari proprietario di alberghi su Carcari, ne denuncia ovviamente l'esistenza e ne approfondisce le dinamiche e le connivenze, lasciando ampio spazio anche al racconto delle vittime che in qualità di testimoni hanno avuto il coraggio di denunciare i propri carnefici. A seguito dell'uscita di questo libro e degli altri in cui Cacio parla della prostituzione e dello sfruttamento delle donne in tutto il mondo, la giornalista è stata arrestata illegittimamente, torturata e condotta nelle carceri di Puebla. Una volta liberata, grazie anche all'eco della sua storia a livello internazionale, continua, nonostante le minacce di morte, il suo lavoro di inchiesta, informazione e di denuncia. E le reti criminali pedopornografiche e pedofile, lo sfruttamento dei minori per fini sessuali, hanno origini profonde nel sostrato culturale di odio nei confronti delle donne, nella separazione e inferiorizzazione delle donne rispetto agli uomini, dei bambini rispetto agli adulti, la maggior parte dei quali maschi eterosessuali, nel divario fra paesi ricchi e fra paesi poveri. la pedofilia e la pedopornografia hanno a che fare con il potere, con l'esercizio del potere. La sua esistenza è garantita dall'impunità e dalla corruzione. Il silenzio poi è la linfa di cui questo sistema si nutre, perché è sempre molto difficile per una vittima denunciare, poiché quando ciò accade non si viene creduti, si è sottoposti a continue minacce, si è costretti a subire nel corso dei processi delle vere e proprie torture. Quindi la denuncia della collettività e la protezione delle vittime sono gli unici strumenti attraverso i quali poter smantellare il sistema dalle sue radici. Il processo per pedopornografia e abuso sessuale sui minori che ha visto imputato su Carcuri rappresenta un esempio di come questo sistema funzioni. Cacio sottolinea nel suo libro il forte legame fra sfruttamento dei minori e il mercato economico del sesso, la prostituzione, il riciclaggio di denaro e il narcotraffico. Secondo la giornalista, la pornografia si è infiltrata nelle grandi società televisive come la IT and T Broadcasting e nelle società internet più conosciute. L'inserimento di pagine con contenuti illeciti avviene attraverso il doppio registro fotografico e testuale, quindi digitando su internet sesso e bambine compaiono delle ragazze presumibilmente ventenni vestite da bambine oppure da scolarette e quindi insomma, in queste pagine l'internauta viene inviato a, citiamo proprio quello che c'è scritto sui siti, scoparsi una bambina vergine e inesperta e a vedere cosa fanno le piccole quando giocano al dottore con le loro amichette, oppure nel caso dei bambini vengono invitati a scoparsi un adone vergine. E questi messaggi quindi non lasciano adito ad alcun dubbio, sono vere e proprie istigazioni allo stupro di minori, e il tutto ovviamente alla luce del sole. What I want, if I wanna live, I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love it. Clothes I'm wearing, I love it. Rocks through my game, I love it. 'Cause I depend on me, if I want it, the watch I'm wearing. Diamo ora voce ad alcune delle protagoniste di questa inchiesta, vittime di Succarcuri, dei pedofili e della pedopornografia. Cinzia sta seduta con le gambe contratte, pronta a sollevarle, a raggomitolarsi per tornare a nascondersi nel proprio corpo. La psicologa le parla, ma la tredicenne tiene gli occhi bassi, sembra addormentata, sorda, muta, assente. L'intero spazio della stanza, con le pareti imbottite dal pavimento al soffitto, è ispezionato dal suo sguardo, mentre la psicologa, che ne osserva le reazioni, le spiega: «Non ti devi preoccupare, lui non può più toccarti, non si potrà più avvicinare a te». Cinzia stringe le mani sul corpicino di un animaletto di pezza, bianco e nero, lo abbraccia e se lo porta al petto. «L'ho conosciuto quando avevo 9 anni». Andavo a casa sua e ci divertivamo un sacco a nuotare nella sua piscina, io e le altre. C'era anche sua moglie. Ci guardavano giocare e poi ci facevano riportare a casa dall'autista. Mi dava sempre un po' di soldi per comprarmi dolci o quello che mi andava. Lo sguardo di Cinzia si immobilizza, fisso negli occhi dell'interlocutrice. Si ravvia i capelli ricci e biondi, cortissimi, si gratta la testa, piega il collo, sbarra di nuovo gli occhi. Un giorno Emma mi portò a Solimar. A lui e lui mi fece entrare nella sua stanza. Si rannicchia su se stessa, abbracciando il pupazzo. Guarda nel vuoto, senza piangere. Cominciò a toccarmi, dicendomi che tutti i papà lo fanno con le loro figlie. E siccome io un padre non ce l'ho e lui mi vuole bene, mi faceva male con le mani. Io piangevo e piangevo, ma lui non si fermava. Poi mi fece scendere nel salone. Lì c'era mio fratello. Ci mise seduti vicini a guardare la tele e gli disse di toccarmi. Lui chiaramente non voleva, si mise a gridare, però Johnny è grande e grosso e ci costrinse a farlo. Perché ci tornavate tu, tuo fratello e le altre? Una volta stavamo nella sua stanza dopo che mi avevano fatto delle cose. Io non volevo scendere in cucina. Allora lui salì con un grosso coltello e mi disse che mi avrebbe fatta a pezzettini. Allora scesi. Non volevo essere fatta a pezzettini. Lui è il diavolo, io ero terrorizzata. Mi diceva: stammi a sentire, piccolina, se ti comporti bene e mi obbedisci andrà tutto liscio, tornerai a scuola e io ti comprerò dei vestiti e altre belle cose. Se però ti azzardi a parlarne con qualcuno, lo faccio fuori. Se dici qualcosa a tua madre, ci rimarrà secca. Te l'ho già detto, sono cose che tutti i padri fanno con le loro figlie, anche se non ti piace. E siccome io non ce l'ho il papà, cos'altro ti diceva? Non posso dire nulla. Fa una smorfia infantile e poi aggiunge: perché se non viene a prenderci, perché altrimenti viene a prenderci e ci porta al DIF. Ci separeranno per sempre e mi rimprovereranno per aver fatto queste cose brutte. Me l'ha detto lui, se parliamo ci rinchiuderanno in un carcere del DIF e non vedremo mai più né mia madre né mio zio di Merida. Rimane in silenzio e accarezza il pupazzo. La prima volta che subì abusi sessuali Cinzia aveva 8 anni, ha continuato a esserne vittima fino a un paio di mesi fa, ora ne ha 13, quando sua cugina Emma l'ha convinta a denunciare quello che stava avvenendo. Raccontami qualcos'altro su quello che succedeva in quella stanza. La ragazzina decide di parlare, pur senza guardare in faccia la psicologa, tiene lo sguardo fisso sulle mani. Scattava delle foto mentre mi toccava, poi mi portava vicino al computer e mi diceva: guarda come veniamo bene mentre lo facciamo, e le pubblicava su internet, che io all'epoca non sapevo neanche cos'era. Avevo voglia di piangere, però avevo paura. Lo zio Johnny a volte era buono, solo che ha quel problema, gli piace fare quelle cose con le bambine. Cinzia, ti piacerebbe vivere nella casa protetta con i tuoi fratelli e tua madre? Sì, credo di sì. La ragazzina si alza lentamente dalla sedia, esce dalla stanza e incontra la madre nel corridoio. Si guardano e la madre scoppia in lacrime. È la prima volta in 13 anni che sua figlia chiede aiuto. Cinzia, accompagnata dalla psicologa, si dirige verso il bagno per farsi una doccia calda. Non vuole spogliarsi, ma alla fine accetta. Poco a poco si denuda levandosi una maglietta e 2 camicette. Porta 4 paia di mutandine di cotone, una sull'altra. L'ultima la tiene addosso, è bianca e sopra l'elastico, in buono stato, ha un nastrino di seta legato molto stretto. Soggiogata dalla paura a causa di Johnny, la ragazzina ha blindato il proprio sesso, il proprio diritto al piacere. Il criminale colpevole di queste e altre vite spezzate ha un nome e un cognome: Jean Sukar Kuri, l'infame imprenditore alberghiero libanese di Cancun. L'entità dei crimini commessi da Sukar e dalla sua rete di sostegno e l'impunità di cui ha goduto possono spiegarsi solamente nel contesto della terra di nessuno che è diventata Cancun. Una città cresciuta vertiginosamente, senza leggi né autorità, brodo di cultura ideale per ogni sorta di nefandezze. pois eu quero é samba. No final, oh, oh, oh, oh. Ariana, oh, oh, Ariana, oh, oh, oh, oh. Eu quero passar e samba está animado, pois eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto. Emma è una ragazza piccolina, 1,53 m, bionda, carnagione chiara, occhi color del miele e labbra carnose. Ha un corpo armonioso che non risponde affatto allo stereotipo dell'adolescente anoressica spacciato dai media per modello ideale. Al contrario, soffre di bulimia, un disturbo dell'alimentazione che porta chi ne è colpito a mangiare in modo compulsivo per poi vomitare tutto il cibo ingerito. I primi sintomi si manifestarono nel 1998, quando aveva 13 anni, cioè poco dopo aver conosciuto Jean Zucker Curie, che praticamente l'adottò come figlia. Per quanto si dimostri come una ragazza forte e caratterialmente dura, ha una personalità emotivamente fragile e piena di tenerezza, e nonostante la sua tragedia personale sa ancora avere fiducia negli altri e accettarne l'aiuto. Tuttora, come sostengono le varie psicoterapeute che l'hanno seguita, soffre di una grave forma di sindrome da stress post-traumatico, nonché della sindrome di Stoccolma, il che ha reso molto difficile per lei rompere i legami affettivi con il suo aggressore. Questa è la storia di Emma. Avevo paura, tanta paura. Erano 5 anni che cercavo di dimenticare quello che mi aveva fatto Johnny, ma la verità e che mi è stato impossibile. Oggi, per colpa innanzitutto di Zucker e poi di Leila Campos, mi vedo costretta a ripetere la storia all'infinito. Sono stanca, triste, spaventata. La mia testa è un groviglio di ricordi molto dolorosi. A volte la notte piango per ore ed ore. Altre volte mi metto a dormire e mi sembra di essere uscita dal mio stesso corpo. Era quello che mi succedeva quando Johnny mi toccava, quando avevo 13 anni. Ero una bambina e nessuno mi aveva mai parlato del sesso. Al principio Johnny mi diceva cose carine, mi coccolava molto e a me faceva piacere. Io non ho avuto un padre, quello biologico se n'è andato quando ero piccola. Oggi vive a Merida, però non vuole vedermi. L'ho cercato e mi ha respinta. Mia madre era un'alcolista. Ora non beve più, ma abbiamo passato periodi bruttissimi. Ricordo che quando avevo 4-5 anni la vedevo addormentata, così stesa in terra, era ubriaca fradicia, e io cercavo di portarla a letto senza riuscirci. Sono cresciuta piena di paure, ma nello stesso tempo sono diventata forte. È molto difficile da spiegare. Voglio un gran bene a mia mamma e capisco che lei ha sofferto sempre. Ha lavorato e si è sforzata da sola per tutta la vita, però non ha mai studiato perché era nata nella miseria. Per questo vendeva gelatina per la strada, una cosa che mi faceva vergognare tantissimo. Mia madre aveva perso un braccio e ricordo che quando lo raccontai a Johnny lui mi disse: «Non preoccuparti, cucciola, alla tua mammina compreremo la migliore protesi del mondo, così riavrà il suo braccio». E gliela comprò. Come potevo non pensare che fosse un uomo buono? Quando era al secondo anno delle medie alla scuola Amsterdam, avevo 12 anni, quasi 13, sentii alcune ragazze più grandi parlare di un tipo che conoscevano, il signor Johnny. dicevano che era molto buono, che le riempiva di soldi e le aiutava a comprarsi un mucchio di cose. Samaria, di 16 anni, e le sue amiche non mi invitavano. A portarmi a casa sua fu Sandra, la sorella di Samaria. Mi disse che suo zio Johnny le avrebbe dato i soldi per comprarsi la divisa da scout, perché i suoi genitori non ce lo potevano permettere. Andammo a casa di quel signore e me lo presentò. Sembrava molto tenero, un imprenditore tanto educato. Mi trattò con grande affetto, ma senza farmi niente. Era sulle scale e ci disse di salire in camera sua, che ci avrebbe dato i soldi. Io mi misi a sedere in fondo al letto e Johnny mi disse: «Tesoro, mettiti più comoda e fatti una partita a Nintendo». Ma vidi l'espressione di Sandra, un terrore che mi gelò il sangue, e risposi: «No, resto qui». Seduta sul bordo più esterno, guardavo la televisione mentre loro chiacchieravano. D'un tratto il signore mi disse: «Chiudi gli occhi, facciamo un gioco». Io obbedii e lui mi baciò, al che io lo respinsi via e lui scoppiò a ridere e a prendermi in giro, ripetendomi che era solo un gioco. Poi regalò un po' di soldi a Sandra, ma chiedendole di tornare il giorno seguente perché non aveva molti contanti. Infine si girò verso di me e mi dette 200 pesos, così, di punto in bianco. Due giorni più tardi Sandra mi ci portò di nuovo. Ci fece salire un'altra volta nella stanza della villa numero 9 del sedicente Solimar. Ci disse di non avere fretta, che potevamo stenderci sul letto a vedere la TV. Lui si piazzò in mezzo. Io avevo un vestitino bianco e azzurro e mi sistemai il cuscino sulle gambe per coprirle. Sandra si girò dall'altra parte e Johnny cominciò ad accarezzarmi le gambe. Ero nervosissima, gli spostai la mano, ma lui mi disse che non c'era niente di male e ricominciò. Ero terrorizzata. Di colpo scese con una mano nelle parti intime e poi mise un dito proprio lì. Mi alzai di scatto dal letto, agghiacciata. Lui ordinò a Sandra di andare a prendere un bicchiere d'acqua e io la seguii barcollando e piangendo, chiedendole di andarcene. Così risalimmo per annunciargli che tornavamo a casa, ci faceva paura, e lui rispose di nuovo che non aveva abbastanza soldi per noi. A Sandra dette $20, quanto a me mi sussurrò all'orecchio di guardarmi in borsa, ma di non dire una parola alla mia amica. Una volta salite sul taxi, controllai e trovai $100. Il taxi lo pagò lui. Alla fine della settimana, Leslie, un'altra amica più grande di me, mi annunciò che avremmo passato la giornata nella piscina di suo zio Johnny. Chiesi il permesso di uscire, spiegando che andavo con un'amica. Trascorremmo la giornata nuotando in piscina, senza fare altro. E lui mi regalò della cioccolata. C'erano altre ragazzine più grandi di me, sui 15 o 16 anni, che salirono in camera sua, ma nessuna mi diceva niente. mentre se ne stavano nella sua stanza, lui scese, tornò in piscina e gli parlai della mia vita, raccontandogli la povertà della mia famiglia. Quel giorno non mi fece nulla, si limitò a promettermi di aiutarmi, dicendo che mi avrebbe pagato gli studi e aiutato i miei a tirare avanti. In quella casa nessuno raccontava quello che succedeva, quello che Johnny faceva alle bambine. Era un segreto, finché non ti portava in camera sua. E da quel momento in poi ci ordinava di stare zitte, imponeva di diventare nemiche l'una con l'altra, ci insegnava a non fidarci. Quando smettevamo di tuffarci e nuotare, ci mandava via a casa nostra, ci faceva riaccompagnare dal suo autista. Dalla prima volta, nel salutarmi, mi infilava soldi nella borsa. Io non capivo, a me nessuno dava mai un bel niente, nemmeno mia madre. Lui mi spiegò che siccome era molto ricco me li regalava con piacere, che lo faceva perché affinché mi comprassi qualcosa, che lui sarebbe diventato mio zio Johnny e si sarebbe preso cura di me e mi avrebbe voluto tanto bene. La cosa mi faceva star bene, la verità è che solo ora capisco quanto avevo bisogno d'affetto. E poi, come potevo sapere tutto quello che mi sarebbe successo? Mi sembrava un signore molto gentile, molto buono, buonissimo. La prima volta che mi disse di andare a fare un sonnellino nella sua stanza, si stese accanto a me e mi disse di togliermi i pantaloncini per stare più comoda. Sentii qualcosa allo stomaco, come un'ansia forte, e gli dissi che non volevo. Ma lui cominciò ad accarezzarmi le gambe e le braccia, a dirmi che quello era l'amore, che lui mi amava tanto, che quello era lo stesso tipo d'amore che può esistere tra papà e figlia e che lui per me era come un secondo padre. La prima volta che mi mise le dita tra le gambe piansi tanto. Secondo lui, se sanguinavo era perché ero tesa e mi raccomandò di non aver paura. Sì, mi uscì un sacco di sangue. Né io né le altre bambine andavamo a casa sua ogni giorno, ma solo ogni 4-5 settimane, quando lui era a Cancun. Johnny veniva a Cancun una volta ogni 5 settimane e si tratteneva una quindicina di giorni. Mia mamma all'inizio non sapeva niente di questa storia. Lottava per la sopravvivenza con mia sorella piccola, il mio fratellino e suo marito che fa il meccanico. E suo marito che fa il meccanico ed è sempre malato, ha avuto un tumore. Non è facile mantenere i figli in quella situazione. Mamma mi chiese chi era quel signore e perché andassi a casa sua. Le risposi che era lo zio Johnny, che le mie amiche gli volevano un gran bene e che era molto buono. Però non ebbi il coraggio di raccontarle quello che mi faceva. Dalla prima volta che mi penetrò con le mani mi disse che era una puttanella, che tutte le bambine lo sono e che a loro piace quella cosa. Piace che gli uomini come lui gli facciano di quelle cose. Tutti gli uomini lo fanno, è meglio che d'ora in poi ti prepari, erano le sue parole. E io come facevo a sapere che non era vero? Lo chiesi alle mie amiche che andavano a casa sua e questa fu la loro risposta. Così è la vita, è meglio se non fai storie. Un giorno mi ordinò di andare in camera sua e il mio corpo cominciò come ad addormentarsi. Dalla prima volta che abusò di me il corpo mi si era come paralizzato, cioè tutta la parte degli organi sessuali era come sotto anestesia. Lui cominciava e io chiudevo gli occhi per pensare ad altro, qualsiasi cosa, perché così finiva più presto. Mi uscivano le lacrime, le sentivo scendere sulle guance ma non dicevo niente, perché se piangevo più forte Johnny diventava più rude e mi faceva male. Allora preferivo che si sbrigasse. Insisteva sul fatto che dovevo imparare a dargli delle succhiatine, cosa che mi faceva uno schifo tremendo, ma lui mi teneva ferma la testa e diceva che dovevo ingoiare tutto lo sperma perché era una vitamina deliziosa. Io correvo in bagno a vomitare e piangevo. Non sapevo che fare, avevo paura. Secondo le mie amiche, la storia con Johnny, una volta iniziata, non la potevi più chiudere, perché lui girava dei video di tutto quello che facevamo. Una sera, nella villa numero 9, mentre mi toccava, indicò una scatola nera di fronte al letto e mi disse: «Guarda là, piccoletta, c'è una telecamera, così poi possiamo rivederci mentre facciamo le nostre cose». Da come parlava, sembrava un ragazzino dispettoso. Io rimanevo zitta zitta e facevo come mi aveva detto. Sul momento non sentivo quasi niente, ma appena aveva finito correvo in bagno a piangere e a lavarmi. Mi faceva male, ma pensavo che mi sarebbe passato. A volte prendeva il video e si chiudeva in camera a rivederlo. Altre volte usava una macchina fotografica digitale e ci riprendeva con l'autoscatto. Acquaro, poi c'erano volte in cui ci piazzava, me o chiunque altro avesse fatto cose con lui, di fronte al computer o al display della macchina fotografica, ci mostrava le foto e commentava: guarda che meraviglia, guarda che cosa abbiamo fatto. E quello che vedevi era orribile, era un incubo rivedere tutto, ma se ti rifiutavi diventava violento o ti copriva di insulti e disprezzo. A me, per esempio, ripeteva che ero una nanerottola brutta e inutile, che ormai ero stata sverginata e che nessuno mi avrebbe più voluta, tranne lui. Quando mi faceva guardare le fotografie mi chiedeva: ti eccita di vederci? E io rispondevo a voce bassa: ma non saprei. Al che ribatteva: certo che ti eccita, visto che sei una puttanella. Tutte le femmine, fin da quando sono bambine, si eccitano a vedere una verga come la mia. Io avevo una paura pazzesca. Quando mi stava sopra lo vedevo così forte che a volte pensavo che avrebbe potuto ammazzarmi. Un attimo dopo diventava affettuoso e tenero, mi sussurrava che ero il suo amore, la sua bambina, che voleva farmi studiare nelle scuole migliori in modo che diventassi qualcuno. Mentre te lo racconto mi chiedo come ho fatto a non impazzire. Era come se quell'uomo avesse due personalità e non sapevi mai quando sarebbe saltata fuori quella violenta, infuriata o quella dolce. Eravamo tutte sempre in balia della sua emotività. A volte ci insultava orribilmente chiamandoci puttane e minacciava di rovinarci davanti a tutti. Se ci fossimo fatte scappare anche una sola parola su quel che facevamo, le nostre madri ci avrebbero cacciate di casa, perché lui era un imprenditore famoso, un uomo sposato, un uomo rispettabile e padre di 3 creature, e nessuno avrebbe creduto a noi, che eravamo delle mezze delinquenti, povere e puttane. Tutti ci avrebbero disprezzate, i nostri amici e le nostre famiglie. Ci usava a turno per non lasciarci segni. Oggi capisco che se avesse fatto le stesse cose tutti i giorni alle stesse bambine, prima o poi le madri se ne sarebbero accorte. Perciò stava molto attento. Dopo aver abusato di noi, ci portava a fare shopping, ci comprava un vestito, una borsetta, quello che ci piaceva, o qualche altro regalo, sempre cose di moda. Quando tornava da Las Vegas o da Los Angeles, a volte ci dava un premio perché eravamo buone e obbedienti. Ci regalava borse Louis Vuitton, profumi Chanel e altre cose, sempre più costose. Diceva che ce le meritavamo e chiaramente a noi quei regali facevano piacere. Perché c'è qualcuno che non ama ricevere regali? Io vedevo che i genitori delle mie compagne di scuola compravano alle figlie tutto quello che volevano. Andavano in giro con jeans Gap e orologi Cartier o Swatch, dipende da quello che era di moda al momento. Oggi ci accusano di esserci lasciate comprare, ma la gente che lo dice non capisce niente. Forse i genitori o gli zii che fanno regali alle figlie o alle nipoti le comprano? La colpa non era la nostra. L'adulto era lui, noi eravamo bambine. Why do what I do? My soul flies free like willow tree. me some bottom on this. Thank you. Allora, queste erano le storie di due testimonianze, di due testimoni e di due vittime. Ovviamente come loro ce ne sono tantissime, e ci è sembrato giusto dare voce anche per sottolineare il coraggio di chi insomma denuncia. E adesso vi lasciamo. Vi ricordiamo che siamo in onda fra due settimane, se continueremo a parlare di questo argomento, e vi invitiamo a scriverci se volete all'indirizzo di posta connettive@gmail.com. Ciao. Ciao.